Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Ciao Chiara. Ciao Federico. Come mai abbiamo questa voce così strana? Perché siamo casati, ma ve lo spieghiamo soltanto dopo. Dopo i titoli. Gianluca da Udine ci chiede: come mai quando respiriamo l'elio ci viene una voce buffissima? Michael Barton studia fisica all'università, ma se al liceo gli dicevano che doveva rimboccarsi le maniche se voleva passare l'interrogazione, lui si rimboccava le maniche. La strana condizione dell'autismo altamente funzionale. Si chiama boosting, è il cosiddetto doping del dolore. Ha fatto scalpore nelle recenti Paralimpiadi di Londra 2012. Quando si decise che i veleni avvelenano le persone e vanno proibiti. A Bergamo Scienza si parla della nascita della tossicologia forense. Oh, eccoci qua, con voci con normali. La nostra voce normale, sì. Eravamo gasati, abbiamo detto, non perché fossimo su di giri, ma no, perché avevamo inalato elio. Abbiamo qua dei palloncini. Sì, sì, si deve aspirare un palloncino per un 10 secondi, è abbastanza. Sì, no? Ecco, l'effetto non dura tantissimo. No, poco. Però, vabbè, insomma, poi si ha questa voce suadente, vabbè, si può cantare anche la lirica. E proprio di lirica poi parleremo. Ma adesso diciamo che andiamo subito alla domanda che abbiamo ricevuto dal nostro ascoltatore. Velocissimamente i contatti per mettersi in contatto con noi, per mandarci i vostri rompicapo. La mail moebius@radio24.it. Poi c'è Twitter moebius_, cioè trattino basso, online. E poi ovviamente dovete chiederci l'amicizia su Facebook Moebius Scienza. Ma andiamo ad Udine con Gianluca. Buonasera, volevo sapere come mai quando si respira l'elio viene fuori quella voce un po' strana. Quella che avevamo noi e lo vogliamo proprio sapere. E qui in studio questa volta è venuto a trovarci qui a Milano Emiliano Ricci, che è il nostro fisico di fiducia. Sì, salve, buonasera a tutti. Dotato, ecco, di vocione toscano, sì. E assolutamente non gasato. Bene, allora, la domanda è interessante e fa riferimento alla, diciamo, al fatto che appunto quando si respira e si parla in un ambiente con gas di diversa densità, si cambia la tonalità della voce. Questo è un effetto noto per quando si parla con l'elio. Fra i fisici si chiama effetto Paperino, perché appunto dà la voce Paperino. Da che cosa dipende? Dipende fondamentalmente dal fatto che la velocità del suono all'interno di un gas è, qui si va un po' sul difficile ma cerchiamo di spiegarlo, è inversamente proporzionale alla radice quadrata del peso molecolare. Ora la spieghiamo un attimo. Allora, l'elio tutti sappiamo che è un gas molto leggero, infatti il palloncino, certo, quando lo riempiamo di elio vola su. Perché? Perché è più leggero dell'aria, quindi l'elio ha un peso molecolare molto minore di quello dell'aria. In particolare l'elio ha un peso molecolare pari a 4. Questo significa che 600 miliardi di miliardi di atomi di elio, quindi quel famoso numero di Avogadro, Avogadro è il chimico fisico torinese di fine 700 inizio 800 che scoprì questo numero, pesano 4 grammi, 600 miliardi di miliardi di atomi di elio, mentre 600 miliardi di miliardi, 600 mila miliardi di miliardi di molecole di aria, quindi azoto, ossigeno, anidride carbonica, pesano quasi 30 grammi. Cavolo! Questo vuol dire che 10 volte di più, quasi 10 volte di più, 8 volte di più. Ora, si diceva che era la radice quadrata, quindi sta 2 contro 6 all'incirca. Questo significa che la velocità del suono nell'elio è 3 volte maggiore di quella che abbiamo nell'aria. Tanto per fare l'esempio, in questi giorni parlavamo del paracadutista svizzero che doveva superare, sì, il muro del suono. Beh, il muro del suono nell'aria è 1200 km orari, che in metri al secondo è circa 340 metri al secondo. Nell'elio, invece che 340 metri al secondo, sono 970 metri al secondo. Quindi la velocità del suono nell'elio è molto maggiore. Perché questa velocità dell'elio fa avere questa vocina? Perché il timbro sonoro, quindi la frequenza a cui emettiamo la voce con la cavità oronasale, quindi con la bocca e con il naso, è direttamente proporzionale alla velocità del suono nella cavità della bocca. Quindi maggiore è la velocità del suono, più alto è il timbro, quindi più alta è la frequenza. Questo è il motivo per cui quando parliamo con la bocca piena di elio parliamo a un timbro più alto, quindi abbiamo una frequenza più alta. Quindi se invece fossimo immersi in un gas decisamente pesantone, avremmo la voce da baritono. Tipo, ci sono degli esempi, per non rischiare potremmo prendere sempre un gas nobile invece dell'elio, prendere l'ossigeno che è molto più pesante. E parleremo così. Esatto. Ecco, adesso faccio la maestrina perché siamo andati a cercare nella letteratura scientifica, abbiamo trovato che non solo noi facciamo gli esperimenti con l'elio, ma anche dei simpatici ricercatori giapponesi che l'hanno fatto ingerire ad un gibbone. Il gibbone è una scimmia. Gibbone mani bianche per la precisione, è una scimmia che viveva in cattività allo zoo di Kyoto, e sentite che cosa gli hanno fatto fare. Prima sentirete il verso del gibbone e poi il verso con l'elio. This is a normal gibbon call. And now a gibbon that's been breathing helium. È tutta un'altra cosa. Questo loro l'hanno fatto, allora spieghiamo. Non per divertirsi. No, non per divertirsi. Fanno ingerire l'elio perché ha delle frequenze che sono più facili da studiare con gli strumenti che loro hanno. E perché studiano le emissioni acustiche? Perché sembrerebbe che i gibboni non solo ci assomigliano abbastanza anatomicamente, ma anche dal punto di vista di come vocalizzano, cioè dalle tecniche di vocalizzazione che utilizzano, che sarebbero del tutto simili a quelli dei nostri soprani. E le usano per comunicare nella foresta, le usano assolutamente, vuol parlare in lontananza e soprattutto perché devono utilizzare dei suoni che attraversino il fogliame e che raggiungano a chilometri di distanza i conspecifici. Abbiamo detto tutto, dai. Grazie a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Qui a Mebius, raccontando di scienza, noi passiamo da argomenti molto gioiosi e divertenti anche a cose molto serie, però può capitare ogni tanto di incontrare cose decisamente serie e anche un po' preoccupanti. Di questo stiamo parlando, no? Sì. Chiara, io do solo il nome che è Boosting e sì, tocca a te. Si chiama introdurlo. Boosting, non so se gli ascoltatori ne hanno sentito parlare, perché comunque ha fatto discutere recentemente in occasione delle Paralimpiadi che si sono tenute pochi mesi fa a Londra 2012, e diciamo che viene tradotto forse erroneamente come doping del dolore, che è un po' il doping che viene impiegato dai tetraplegici in carrozzina, quindi per alcuni sport, i più faticosi soprattutto, per attutire o meglio per avere prestazioni più eccellenti, quasi normali, possiamo dire. Utilizziamo la parola normali perché adesso spiegheremo che si parlerà di caratteristiche fisiologiche normali. Quindi sì, per... è un argomento complesso. L'argomento è molto complesso. Ci aiuta, diciamo, un esperto di questo che è Marco Bernardi, che è medico, professore di fisiologia e di medicina sportiva alla Sapienza di Roma, ma che è stato anche coordinatore ed è tuttora responsabile scientifico dei medici del Comitato Paralimpico. Intanto benvenuto Bernardi. Grazie, buonasera. Buonasera Bernardi. Ecco, forse possiamo iniziare, professore, a introdurre l'argomento dando una definizione di questo boosting, che appunto erroneamente in italiano noi traduciamo come doping del dolore. Beh, boosting implica semplicemente il concetto di migliorare una prestazione. Il doping in realtà ha lo stesso significato, con l'assunzione di sostanze non permesse la prestazione può essere migliorata. Il boosting è una particolare induzione di un riflesso anomalo del sistema nervoso autonomo, il processo si chiama proprio disriflessia autonoma. Tramite questa induzione della disriflessia autonoma, alcuni mielolesi, cioè quelli che hanno una lesione alta a livello cervicale o toracico alto possono avere un miglioramento della prestazione. E questo tipo di doping se ne è parlato anche in termini piuttosto duri, nel senso che gli atleti si producono un dolore apposta per avere una reazione dal proprio corpo che appunto potenzi da una parte le prestazioni, quindi faccia aumentare l'adrenalina, la gittata cardiaca, eccetera eccetera. Ecco, vorremmo capire un pochino, fare un po' di ordine su quello che si è detto, perché si è parlato di scariche elettriche, che anche i testicoli, insomma, cose piuttosto dure, in realtà insomma basta anche poco, purtroppo. E poi c'è il problema che questo dolore ovviamente non è avvertito dall'atleta che ha subito delle lesioni, no? La disriflessia autonoma è in effetti un problema che hanno le persone con tetraplegia. Perché è un problema? Perché quando uno ha una lesione del midollo spinale, quindi un taglio, immaginiamo, sul midollo spinale, tutta una parte del corpo non è controllata volontariamente, e quindi c'è una paralisi, per esempio, muscolare, ma quella stessa parte del corpo non è avvertita a livello cosciente, cioè non c'è la percezione e la sensazione del dolore o di qualunque altra stimolazione, quale può essere una stimolazione termica. In realtà noi abbiamo tutta una serie di informazioni che corrono lungo il midollo spinale e che arrivano alla periferia relative al sistema nervoso autonomo, il sistema nervoso cioè che controlla quella che noi chiamiamo l'omeostasi, quella che controlla quei fenomeni nel nostro organismo di cui non abbiamo la percezione, di cui non abbiamo la coscienza. Tramite il sistema nervoso autonomo, ad esempio, viene controllata la pressione arteriosa, tramite il sistema nervoso autonomo viene controllato lo svuotamento vescicale. Diciamo la regolazione di tutti quei parametri fisiologici che ci permettono di vivere una vita regolare, ecco. Esatto. E quindi tornando ai paratleti, loro diciamo che sfruttano questa cosa. Sì, loro sfruttano che cosa? Sfruttano qualche cosa che normalmente non funziona in maniera normale. E cioè, ad esempio, se uno ha una lesione alta e non ha la sudorazione al di sotto del livello di lesione. E la sudorazione è un processo che è controllato in maniera omeostatica e tramite il sistema nervoso autonomo. Per tornare alla domanda iniziale, sì, il modo con cui normalmente viene indotta la disriflessia autonoma in maniera spontanea, il modo più frequente, è proprio il riempimento vescicale. La vescica si riempie più di quanto è in grado di contenere e questo innesca un meccanismo che risponde con delle vie invece motrici che tendono a contrarre la vescica. Dunque, in termini più semplici, diciamolo così, anche se l'immagine è un po' dura, l'atleta, sapendo appunto questa cosa, in qualche modo interrompe, blocca il catetere e in questo modo ha una concentrazione maggiore di determinati metalli. E l'atleta ha in questa situazione una scarica da parte del sistema nervoso autonomo ortosimpatico. Questa scarica, per quanto riguarda la vescica, cercherebbe di contrarre la vescica, però siccome si trasferisce lungo tutto il midollo spinale, ha anche tutti gli altri effetti che normalmente ha il sistema nervoso autonomo ortosimpatico. Quindi una scarica di adrenalina, un aumento della pressione arteriosa, un aumento della gittata cardiaca. Agisce sui vasi al di sotto della lesione, contraendoli, e questo determina un aumento della pressione arteriosa. Questo determina un maggiore ritorno di sangue verso il cuore si riempie di più. Sì. Questo processo è un processo che normalmente avviene in una persona normale, in una persona sana, però un tetraplegico non ha la possibilità di controllare queste pareti. Cioè, per il fatto che non sente dolore si produce delle capacità fisiche che però in altro modo invece se sentisse dolore sarebbero totalmente impedite. Vorrei chiarire questo fatto. Per il fatto di non avere questa regolazione da parte del sistema nervoso autonomo, la disriflessia autonoma è una condizione artificiale, in cui lui torna alla normalità. Mm. E come questo ci sono altri metodi, quali ad esempio magari qualche ferita, imporsi qualche ferita, oppure mettersi in posizioni particolarmente scomode ma che tendano, come dire, i legamenti, in questo modo comunque attiverebbero questo stesso tipo di meccanismo. Professore, dal 94 che questo tipo di pratica è considerata fuori legge, che cosa succede ad un paratleta che utilizza questa tecnica? Viene eliminato, viene multato? Allora, la preoccupazione maggiore è da parte del Comitato Internazionale Paralimpico è la salute dell'atleta. Quindi, siccome l'aumento di pressione potrebbe determinare un rischio, ci sono stati casi in cui questa pressione è aumentata talmente tanto da determinare emorragie addirittura a livello cerebrale, per questa ragione, quindi per ragioni di salute, all'atleta che viene trovato con una pressione maggiore di 180 millimetri di mercurio, la sistolica maggiore di 180 millimetri di mercurio, non viene consentito di svolgere la gara. Quindi viene eliminato, allontanato. È possibile che anche in queste Paralimpiadi qualcuno abbia utilizzato questa tecnica? Ne avete avuto dei riscontri? Questa tecnica è molto diffusa fra le persone con tetraplegia, perché la displessia autonoma può insorgere non solo per autoinduzione, ma ovviamente può sorgere in maniera spontanea. Quindi è molto probabile che, specialmente in gare come le gare lunghe, per esempio il rugby per tetraplegici, in cui magari il controllo era stato fatto ma un quarto d'ora prima che la gara iniziasse, ci siano state persone che poi durante la gara in effetti abbiano avuto displessia autonoma, con il sistema più semplice che hanno gli atleti, e cioè quello di bloccare il catetere. Le chiedo un'ultima cosa, perché lo troviamo nella pubblicistica anche di riviste scientifiche, cioè si parla anche di sistemi che vanno oltre. Prima la accennava anche la mia collega Chiara, si parla di ferite ma anche di rotture di parti di ossa, insomma si parla anche di cose ben più intense che una vescica mantenuta piena. Che cosa sa lei di queste cose? Le modalità più frequenti sono quella che vi ho detto, oppure la sua collega parlava del rimanere in una posizione rannicchiata per molto tempo, quindi qualunque stimolazione nocicettiva può indurre questo stimolo. Quindi trovo, diciamo, piuttosto, però per esempio con un'unghia incarnita di una persona può determinare questo stimolo, un qualunque problema, una piccola ulcera sotto la lesione può determinare questo problema, e questi sono fenomeni che possono avvenire molto frequentemente in queste persone. Trovo un po' eccessivo forse che qualcuno, insomma, faccia questa pratica con mezzi così deleteri, quali forti, duri, fratturarsi spontaneamente un dito del piede. Quindi, per ritornare al discorso, che la displessia autonoma deve essere combattuta perché potrebbe potenzialmente determinare fenomeni patologici molto importanti. Va bene, grazie intanto professore per il suo contributo, insomma un tema tosto e però, ancora mi pare che però sia presidiato abbastanza. Buon lavoro e buona ricerca. Grazie, arrivederci. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Prima vi abbiamo proposto una storia molto dura, difficile. Adesso ne proponiamo un'altra, strana, con problemi e grandi suggestioni, come avviene sempre quando si osserva il comportamento della nostra mente. Michael Barton è uno studente universitario di astrofisica affetto da autismo. Sul settimanale inglese New Scientist è uscita una sua intervista. Ascoltiamola. Perché le persone come te, affette da autismo, trovano la lingua inglese così ingarbugliata? Gli autistici pensano in bianco e nero e per questo interpretano ogni espressione alla lettera. Le persone comuni amano usare espressioni idiomatiche, metafore e figure retoriche per facilitare la comunicazione o semplicemente per rendere la vita più interessante. Ma per gli autistici tutto questo non ha alcun senso. Raccontami di quella volta in cui, per spronarti a dare di più, il tuo insegnante ti disse «rimboccati le maniche». Io lo presi alla lettera e feci proprio quello che mi aveva ordinato. Mi tirai su le maniche. Naturalmente l'insegnante si arrabbiò e pensò che io fossi sfacciato. Questo è un problema comune con i bambini nello spettro autistico ed è importante che gli insegnanti capiscano che lo studente sta semplicemente eseguendo gli ordini. Quando ero alle scuole elementari, si ruppe la mia matita e l'insegnante mi disse di controllare se ce ne fossero altre nell'armadio. Quando tornai senza matita, lei mi disse: «Non ce n'erano?» E io risposi: «Sì, tantissime». Cosa succede se vedi una scritta che dice «I passeggeri devono rimanere seduti tutto il tempo»? Ho imparato che se una scritta mi suona strana, probabilmente non significa quello che dice esattamente. Quindi guardo che cosa fanno le altre persone. Se tutti ignorano la scritta alzandosi e scendendo dall'autobus, io capisco che la scritta non va presa alla lettera. Cosa passa per la tua mente quando senti espressioni come «gli è costato un occhio della testa» oppure «mettici la testa»? Quando sento queste cose, si forma nella mia mente l'immagine di qualcuno senza un occhio o di qualcuno che tiene parte del proprio cervello in mano. Quando ero giovane, non prendevo neppure in considerazione la possibilità che esistessero altre spiegazioni. Ma oggi, se qualcosa mi sembra ridicolo, riesco a capire che probabilmente si tratta di un'espressione idiomatica e quindi va intesa al di fuori del suo significato letterale. È questo fatto che ti ha spinto a scrivere il libro «Piovono cani e gatti», una guida sullo spettro autistico nel confuso mondo delle espressioni idiomatiche, delle metafore e delle espressioni quotidiane? In origine, alle scuole elementari, facevo dei disegni per aiutarmi a ricordare il significato di queste espressioni. In poco tempo ho accumulato un intero raccoglitore di immagini e le persone hanno cominciato a chiedermi delle copie. Spero che il libro aiuterà i bambini autistici a imparare le espressioni idiomatiche e gli adulti che hanno a che fare con quei bambini a capirli meglio. Hai detto che l'unico momento in cui le persone ti parlano in modo chiaro e conciso è durante le lezioni di matematica e fisica e quando viaggi in un paese straniero. Comunicare concetti scientifici è semplice. Ognuno parla lo stesso linguaggio. Quando vai in un paese straniero, invece, le persone fanno lo sforzo di parlare in modo chiaro e senza ambiguità, perché sanno che se non lo facessero, tu potresti non capire. Tu sei affetto dal cosiddetto autismo high functioning. Come si traduce questo nella tua vita quotidiana? Essere affetti da autismo significa per me avere una mente logica e poter rimanere concentrati per periodi anche molto lunghi. Significa inoltre essere bravo in scienze e in musica. Allo stesso tempo, però, può essere estremamente frustrante dover indurre le persone normali a capirmi. Tu pensi che essere autistico abbia risvolti positivi? Potresti descriverne alcuni? Quando avevo 7 anni, i miei genitori mi comprarono un enorme kit di costruzioni. Io spesi le 5 ore successive, ininterrottamente, a costruire una ruota gigantesca. Questa abilità nel maneggiare gli oggetti, unita con i processi logici mentali, ci rende naturalmente portati per il mondo tecnologico moderno, specie nel campo della scienza, della programmazione informatica e della matematica. Per ragionare un po' su questa intervista che avete appena sentito, io vado all'Università di Stanford dove trovo Francesca Pei. Buonasera, Francesca Pei. Buonasera. Lei è psicologa clinica ma anche neuroscienziata, ha lavorato e sta lavorando nel campo delle ricerche sull'autismo. La domanda che le voglio fare, anche lei appunto ha sentito questa intervista che noi abbiamo riprodotto, è la seguente. Da una parte abbiamo una persona che sembra, ci descrive il suo essere totalmente sprovveduto rispetto alla metafora più semplice, no? Tipo quella bisogna tirarsi sulle maniche e lui si tira sulle maniche. E dall'altra però stiamo parlando di un ragazzo che è uno studente di fisica che si appresta a fare ricercatore probabilmente in questo campo, è anche un personaggio molto brillante, ha scritto un libro, un suo testo divulgativo su questi suoi problemi di autismo e però lavora in un campo, quello della fisica, quello della matematica, dove forse questo magari a largo pubblico non può arrivare, però si vive di metafore, ci si inventa dei mondi, si va a creare moltissimo, sono dei campi di studio e di ricerca molto creativi. Quando parliamo di grande creatività parliamo anche di una grande capacità di costruire metafore. Come può essere che ci sia questa differenza così netta? Credo che in realtà la differenza nasce un po' dal fatto che le due metafore, cioè la metafora utilizzata nel linguaggio quotidiano e la metafora utilizzata nel campo della matematica, sono comunque diverse. C'è una differenza in quanto la metafora matematica, in un certo senso, come poi diceva anche il matematico Zeman, è un po' inumana, cioè non c'è tutto l'aspetto sociale che invece c'è nella metafora che viene utilizzata nella vita quotidiana. Molto astratta, probabilmente, no? Questo che dice, è più astratta e non, diciamo, la problematica principale di persone affette da autismo è l'aspetto sociale, la relazione sociale. E quindi quando si parla di una metafora sociale, ovviamente implica non solo l'aspetto linguistico e semantico della comprensione di quello che si sta dicendo, ma anche tutto il riportare il significato a una sfera sociale, cioè quando dico gli avvocati sono squali, voglio dire, devo avere una cognizione non solo di che cosa è un avvocato, di cosa è uno squalo, ma anche di quali attributi dello squalo associare all'avvocato. Adesso magari ci saranno avvocati in ascolto, ma era una metafora. Era un esempio, una metafora. Ma vediamo se ho capito bene. Lei dice, nel momento in cui questo ragazzo si trova di fronte a una persona, quindi un altro da sé, che gli propone una metafora, noi qui non dobbiamo stare attaccati al fatto che c'è un messaggio e basta, c'è una relazione sociale. Nel momento invece in cui si fa i suoi mondi matematici o fisici da solo nella sua testa, certo, non c'è questa relazione, questa è la differenza. Non c'è questa relazione, questo è quello che dico. Forse potrei anche aggiungere che da un certo punto di vista il linguaggio comunque racchiude tutta una serie di aspetti per alcuni sensi più complessi rispetto alla matematica, che appunto sono quelli dell'interazione cioè, se noi diciamo ad esempio la stanza è come un forno, è più facile che il soggetto autistico capisca che vuol dire che è calda come un forno. Se è calda come un forno, cioè associando le due. Se invece noi diciamo questa stanza è un forno, più difficile, diventa più astratta come correlazione tra le due cose, cioè devi riuscire a capire quali sono gli aspetti del forno associabili alla stanza, ovviamente. Certo. Quindi c'è un po' questo aspetto un po' più complesso che un po' si basa un po' sulla pragmatica del linguaggio, della comprensione del linguaggio, diciamo. Però sembrerebbe emergere il fatto che il linguaggio non è quella roba scritta che ci possiamo leggere da soli quando leggiamo un romanzo. Il linguaggio qui lo intendiamo come qualcosa che viene prodotto da due persone che si parlano, e se c'è questo fatto, quelle due persone che si parlano, l'autistico fa entrare la sua difficoltà di relazione anche nella comprensione delle cose. Questo penso che sia, sì, penso che la differenza fondamentale sia proprio qui, cioè nell'aspetto sociale, perché poi per assurdo, se devo citare ad esempio una autistica famosa, Donna Williams, che probabilmente molti di voi hanno sentito nominare, lei ad esempio, parlando di metafore, afferma che in realtà, e lei è nello spettro autistico chiaramente, dice che in realtà la sua vita è fatta di metafore. Vede. Secondo lei, ad esempio, gli uomini si dividono in uomini gatto e uomini cane, per esempio. Però è tutto un altro, è una metafora riferita a se stessa, non è una metafora, cioè al suo modo di vivere le cose, non è una metafora riferita al sociale. Qualora questa cosa poi invece è un'interpretazione sociale, diventa un problema. Certo, c'è una dimensione interiore che è completamente diversa da quella esteriore nell'autistico. Va bene, mi sembra che abbiamo chiarito abbastanza le cose. Grazie Francesca Pei e buona ricerca. Prego, grazie mille. Dalla scorsa settimana, quando eravamo a Next, ci siamo portati appresso un'altra innovazione che è particolarmente significativa. Sì, un po' di progetti interessanti. Eccoci, allora, abbiamo in studio Kuliki Lia, che viene da Veneto Nanotech, che ha presentato un progetto veramente innovativo, un trattamento di tessuti al plasma atmosferico. Ecco, sembra complicato, però dobbiamo capire che cosa significa. E che ha un enorme significato perché agisce su una grande industria, quella dei tessuti, che da diverso tempo deve riuscire a trovare una propria strada di innovazione, perché è entrato in una grande criticità. Com'è che possiamo partire da come gli effetti che questa tecnica dà sulla colorazione? Sì, il trattamento al plasma atmosferico migliora molti processi nel settore tessile, a partire da tintura, che potrebbe essere vantaggiata, nel senso si riesce a tingere a minor tempo, abbassando temperatura di bagno di tintura. A parte questo, il trattamento di plasma atmosferico modifica veramente tessuti, per esempio può dare proprietà antifeltrente alla lana, quindi diventa lavabile in lavatrice, anche proprietà di anti-peeling, cioè peeling ridotto. Se trattare fibra, e noi riusciamo a farlo, trattare fibra in linea con la nostra macchina innovativa, filo prodotto successivamente è più forte, quindi permette poi migliorare produzione. Quindi c'è un fronte di miglioramenti molto, molto vasto. C'è un grosso problema nell'industria tessile, che ormai con la sensibilità ambientale che è giusto avere è complesso da risolvere, cioè l'industria tessile per sua natura produce una grande quantità di inquinanti, qui vengono ad essere bypassati? Sì, c'è da dire che l'industria tessile non ha avuto grandi innovazioni da decenni. È vero. Noi con questa macchina che abbiamo costruita e brevettata presso Veneto Nanotech a Marghera riusciamo a applicare su diversi materiali tessili a partire dalla fibra in continuo, si lavora in linea utilizzando esclusivamente aria, quindi questo trattamento è a secco. Ecco, infatti plasma atmosferico, qualcosa ci deve spiegare. Sì, cosa vuol dire? Sì. Può essere paragonato con luce neon, se riusciamo a immaginarlo senza vetro, senza protezione. Quindi noi abbiamo aria eccitata, illuminata, in aria davanti gassosa. A noi, gassosa, che è fredda, non scalda materiali, altro problema. Ma li modifica. Certo. Li modifica sostituendo quello che di solito si faceva con chimica liquida. Quindi noi andiamo, a parte tutto detto, noi andiamo anche a eliminare l'uso dell'acqua. Certo. Tutti questi processi diventano a secco. Sì. Io so per esempio che uno dei tanti aspetti di inquinamento ambientale del tessile è l'immettere acqua calda tipicamente nei fiumi, no? Innalzando la temperatura dell'ecosistema. Voi invece qui siete a freddo. Sì, e da questo provengono vantaggi economici a parte di ecologici. E poi non si usano sostanze tossiche, additivi. Andiamo a eliminarli in certi processi oppure ridurli fortemente. Uso. E questo tipo di processo di produzione è, come dire, ad un'impresa costa di più, nel senso che ci vuole una tecnologia molto costosa e va ad incidere quindi poi sul prodotto finito, sul maglione oppure no? No, la macchina che abbiamo costruito, una pilota di scala media, diciamo, non costa eccessivamente se paragonare con macchine tessile. Costo di produzione è minore rispetto a tradizionali trattamenti chimici. Beh, quindi avete fatto bingo, insomma, è un insieme di cose piuttosto azzeccate. Va bene, allora in bocca al lupo, davvero. Insomma. Bene, bravi. Grazie. Buona fortuna. Buonasera. Buonasera. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Veleni a Bergamo. Potrebbe sembrare, dato il periodo, che sia un ennesimo episodio che riguardi politica, corruzione, scontri fra partiti, invece riguarda proprio i veleni, gli avvelenamenti. Ne parlo con Fabio Turone questa sera. Ciao Fabio. Ciao Federico. Giornalista scientifico, quindi ci diamo del tu. Tu hai seguito a Bergamo una delle conferenze più interessanti, più curiose, sia interessanti che curiose, nel senso stimolanti per il largo pubblico. Una giornalista collega americana, Deborah Bloom, ha scritto un libro sulla storia della tossicologia forense, cioè quando è nato, quando si è incominciato a lavorare in modo un po' scientifico sul fatto che i veleni sono uno degli strumenti fondamentali, insomma, nei casi di omicidi. E questo è stato, questo è il testo sulla quale lei ha lavorato, e c'è stato un incontro con il pubblico che è stato molto, molto interessante, no? Cominciamo magari dal libro, dici qualcosa di questo testo. Sì, quest'opera della collega americana Deborah Blum, che è stata una vincitrice del premio Pulitzer nel 1992 come giornalista scientifico, è incentrata sulla nascita a New York, negli Stati Uniti, negli anni 20, quindi nell'era del jazz, della tossicologia forense ad opera di due scienziati che per primi applicarono sistematicamente tecniche di indagine per cercare di trovare la causa di morte, quindi il colpevole, di casi che fino ad allora risultavano quasi sempre senza un colpevole. L'aspetto molto affascinante di questo romanzo, di questo libro, appunto dico romanzo ma non è un lapsus, è che no, è certo, scritto in forma narrativa. E soprattutto, diciamo, l'ha chiamato Poisoner's Handbook, cioè il manuale dell'avvelenatore, con proprio l'intento di entrare un po' nella testa di coloro che usavano veleni e che nei secoli, anche appunto in epoche ben precedenti a quella di cui parla il libro, usavano i veleni per far fuori, diciamo, in Francia si chiamava l'arsenico, era detto la polvere della successione, perché in molte famiglie veniva per l'eredità usato per avere, esatto, rapido, certo, accesso all'eredità. Però nel 1920 ci si potrebbe aspettare, non che fosse iniziato nel 1600, però anche un po' prima, quindi vuol dire prima di quella data con il veleno la facevi franca sicuramente. Il libro del Deborah Blum si concentra sulla situazione negli Stati Uniti d'America. È vero che in Gran Bretagna già sul finire del secolo precedente c'erano stati alcuni esperti che avevano cominciato a usare tecniche per alcuni versi simili a quelle che poi avrebbero messo a punto questi ricercatori della polizia di New York. L'aspetto effettivamente difficile da ricostruire in questo momento è la reale effettiva possibilità di sapere quanti casi di avvelenamento sono passati inosservati in qualche modo, per cui è un po' una disciplina in cui sappiamo quello che è stato individuato come avvelenamento in generale o magari approfondito, e quanto alle tecniche, appunto, dagli anni 20 in poi New York fu il primo distretto di polizia a disporre di esperti forensi. Cioè, tu quello che dici è che sul prima non possiamo avere dati, di fatto. Appunto, sul prima sicuramente c'è una analoga ricerca condotta in Inghilterra di cui il libro non si occupa, ma quello che affascina molto di questo manuale dell'avvelenatore è proprio l'approccio sistematico che Deborah Blum ha avuto nel raccontare, associandolo a casi realmente accaduti, a indagini realmente effettuate negli Stati Uniti, ogni specifico veleno, appunto, a casi di cronaca e al come hanno fatto gli investigatori a associare la morte all'uso di quel veleno o in alcuni casi all'intossicazione involontaria, diciamo, non dolosa ma colposa. Perché, come dice appunto, come ha insistito Deborah Blum, in quell'epoca moltissimi veleni, moltissime sostanze oggi note per essere tossiche, erano liberamente in commercio, certo, per vari scopi, tra cui anche in molti casi erano contenute in tonici, in prodotti cosmetici. Ci si avvelenava in generale molto più facilmente al di là di obiettivi omicidi. Senti Fabio, a un certo momento, fra le tante domande del pubblico, le hanno chiesto, curiosa questa domanda, qual è il veleno migliore, insomma? Sì. Sentiamo un attimo cosa ha risposto lei. Poisoners, your modern poisoner does not rush out and use some futuristic poison developed by a weapons lab. They use the poison they have next door. right? The easy to get poison. In the United States, the number one homicidal poison. Ecco Fabio, cosa raccontava Deborah? Ma qui era appunto alla fine, lei è sempre molto divertente e divertita dall'interazione con le domande del pubblico, e questa è ovviamente una domanda ricorrente. Il succo della risposta è che non bisogna andare a cercare chissà quanto lontano, e che un ottimo, da un certo punto di vista, un ottimo veleno è l'antigelo, con l'avvertenza che tipicamente la polizia lo sa, e quindi diciamo tutte le volte che c'è un motivo di sospettare una morte non accidentale, l'autopsia poi rileva le tracce associate. Per cui in questo caso raccontava di una donna in America che ha ucciso il primo marito mettendogli l'antigelo nel jelly o nel budino. E l'aveva fatta franca, poi si è creduta più furba di tutto il resto del mondo, e col secondo marito ha avuto di nuovo qualche dissapore e ha pensato: bene, beh, ci sono riuscita col primo marito, faccio lo stesso. Sì. Solo che in quel caso hanno disposto l'autopsia e la signora è stata condannata ed è finita in galera. Sì, c'è anche questo fatto che lei continua a uccidere i mariti, ma scusa, però la conclusione della Deborah è che in ogni caso la scienza ci arriva sempre ad arrivarci. Però mi pare che lei dica anche che effettivamente l'antigelo ha una caratteristica, questo può essere un po' sorprendente, di non avere gusto, cioè si combina molto bene col cibo. Sì, assolutamente, in questo senso diciamo elencava le caratteristiche del veleno ideale, come essere in sapore, in colore, in odore e capace di mescolarsi facilmente. Poi appunto quello su cui ogni volta bisogna essere cauti, lei, su cui lei scherzava, è: io sono anni e anni che mio marito non prende più il caffè con me perché è certo di quanto è facile avvelenare il prossimo con le sostanze più strane, racconta, e al tempo stesso dice: non vorrei mai che qualcuno prendesse la lettera, il senso del manuale dell'avvelenatore e poi usasse le istruzioni per commettere dei reati. In questo senso appunto la scienza ha gli strumenti oggi per capire, esatto. Poi bisogna vedere ovviamente quanto viene impiegata e quanto correttamente viene impiegata nel corso delle indagini di polizia. Certo. Grazie Fabio e buon lavoro. Grazie e buona serata a tutti. La scienza può servire alla diplomazia? Barbara Galavotti è qui con me per parlare di codesta cosa. Ciao Barbara. Ciao Federico, buonasera a tutti. La scienza sappiamo che purtroppo produce armamenti, ma di solito quelli non fanno parte della diplomazia. Qui stiamo parlando di qualcos'altro. Stiamo parlando forse dell'opposto, perché se gli armamenti fanno parte del cosiddetto potere duro, hard power, al contrario esiste un'altra forma di strumento di potere, che è il cosiddetto potere morbido, il soft power. È sostanzialmente una forma di potere seduttivo, un potere che non deriva dalla forza e che può essere posseduto da nazioni, ma anche da aziende, da gruppi di potere o anche da singole persone. Ok, tu hai portato un ospite a Möbius per parlare di questo, presentacelo. Sì. Il nostro ospite è Alessandro Politi, analista politico e strategico. Buonasera Politi. Buonasera a voi. Allora. Effettivamente la scienza ha molteplici utilizzazioni. Tutti ci ricordiamo del progetto Manhattan, quello della bomba nucleare, ma non solo. Ma al tempo stesso la scienza, quando raggiunge delle punte di eccellenza, delle vette nel sapere, irradia un'immagine, una reputazione, un prestigio del paese che la produce come paese che è desiderabile da imitare. Ma non è un caso che anche, ma perfino ai tempi della Roma imperiale, del Medioevo, del Rinascimento, le potenze dell'epoca attraessero anche intellettuali dotti e scienziati, perché questo appunto proiettava la reputazione e il prestigio di una potenza anche piccola. Pensiamo per esempio al Ducato di Urbino, dove i Montefeltro erano senz'altro dei condottieri, ma dove parte della loro importanza era data proprio dalle arti e dalle scienze che loro promuovevano. creano status. Come siamo messi in Italia? Perché insomma, abbiamo dei ricercatori straordinari, per esempio ancora una volta ricordiamo il CERN di Ginevra e la scoperta del bosone di Higgs, che è in buona parte italiana. Noi stiamo messi, per dirla in termini colloquiali, così cos'ha. Cioè abbiamo degli scienziati, abbiamo degli investimenti che tornano, cioè che hanno un ritorno anche di insomma, considerazioni di questo paese, ma poi non diamo seguito, non recuperiamo questi cervelli oppure non creiamo delle reti fidelizzate all'Italia di questi cervelli nel mondo. È un legame dove ancora il grande scienziato, il grande ricercatore viene considerato una sorta di genio expendable al caso dove cade, cade. Questo si vede benissimo anche con la scuola normale superiore di cui sono stato allievo. Non c'è una filiera prevedibile come invece c'è in Francia. Siamo e sempre questo... un po' in mezzo al guado, è il nostro problema. Sì, è un problema, Barbara? Di seguito. Sì, certo. Mi chiedo se questo ci si può ritorcere contro, perché insomma il potere usato male può essere molto autolesionista. Beh, succede esattamente per tutte le forme di potere, basti vedere l'invasione, l'attacco all'Iraq che si è ritorto contro, e lo stesso vale per il soft power. Cioè rischiamo di avere un'immagine alla fine non sufficientemente definita, dove quindi coesistono pizza, mandolini, il sole, il mare, le belle donne e poi anche rubbia, ecco, e questo poi anche che è alquanto disarmonico, come qualunque specialista di comunicazione può dirvi meglio di me. Barbara, di queste cose che riguardano diplomazia e anche di rapporti fra scienza e diplomazia si è discusso, si sta discutendo in un convegno, no? Lungo, in una serie di appuntamenti. Sì, è il Festival della Diplomazia che si è tenuto tra Spoleto e Roma e che si sta concludendo proprio in questi giorni. In conclusione, però, Alessandro Politi, le volevo chiedere, ma c'è qualcosa che possiamo fare per volgere al meglio un potere che, come ha detto lei, adesso abbiamo un po' così cos'ha? Sì, uscire dalla mentalità assai aziendalista di basso livello, la cultura non fa mangiare, il che significa appunto finanziare seriamente la ricerca scientifica, significa finanziare le diverse componenti del soft power che non sono dei centri di costo, ma sono invece dei moltiplicatori di forza della comunicazione strategica di un paese. Alessandro Politi, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Ciao Barbara, alla prossima. Ciao Federico, buonasera a tutti. Oh, dunque, Möbius finisce qui. Io vi ricordo che se volete lanciarvi col paracadute dall'alto bisogna che vi lanciate da 40 km, perché ormai questo è il modo per superare il record. Prima era solo 32. Invece, se volete passare una settimana normale, io vi auguro che sia buona. Ci sentiamo qui fra 7 giorni.